Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete il sabato e la domenica con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. Oggi vorrei cominciare la puntata parlandovi di ciliegie. Perché vi parlo di ciliegie? Beh, innanzitutto perché è la stagione delle ciliegie, perché le ciliegie maturano tra maggio e giugno. Ma dove ho ricavato questa informazione, questa memoria sulle ciliegie? L'ho ricavata da Il è il mensile del Sole 24 Ore, la sigla sta per Intelligence in Lifestyle, è in edicola da ieri, in vendita appunto con il nostro quotidiano, e tra le molte cose che trovate all'interno delle pagine denominate Global Agenda, sono nelle ultime pagine appunto del nostro mensile, c'è anche una bella comparazione tra le varietà di ciliegie, perché ci sono appunto molte varietà di ciliegie, perché molti sono anche i gusti dei consumatori, di noi consumatori. Qui ne vengono ad esempio ricordate 8. Tra le altre cose per cui parliamo di ciliegie, appunto, la stagione maturano tra maggio e giugno a seconda della regione, e una cosa che forse non tutti sanno è che l'Italia è il primo produttore europeo di ciliegie. A livello mondiale siamo preceduti in realtà dall'Iran, dagli Stati Uniti e dalla Turchia. È bene controllare quando acquistiamo ciliegie, lo ricorda sempre Il nella pagina che è stata curata da Antonio Leonardo Favero, è bene controllare, dicevo, che il picciolo sia fresco e che la buccia sia liscia e brillante. Qualche altra curiosità, dovete sapere che sono due gli alberi che producono le ciliegie che conosciamo: il prunus cosiddetto avium dà le varietà dolci e il prunus cerasus che invece dà le varietà più acide, più amare. E poi naturalmente le ciliegie famose, cioè le categorie più famose, il durone nero di Vignola, prodotto tra Modena e Bologna, matura prima della metà di giugno, frutti di medio-grandi dimensioni. Originari della Francia, diverse varietà, il burlat ad esempio è una varietà originaria della Francia ed è già disponibile perché matura intorno a metà di maggio. Altre varietà ancora: il Napoleon, il Graffione Bianco, il La Pen e il Malizia. La varietà Malizia, che segnala sempre Il, è una varietà molto coltivata in Campania, matura anche questa a maggio. E allora, sempre da Il, in realtà riprendiamo un po' dai temi più in evidenza. In evidenza questa settimana sulla copertina di Il, i migranti, il fenomeno dei migranti, i problemi dei migranti. Miseria e dignità è la sintesi che hanno scelto alla redazione di Il per illustrare le pagine che poi compongono appunto le inchieste all'interno: Tendopoli, ghetti, nuovi campi di concentramento, da Lampedusa all'India. Chi non ha soldi in tasca finisce ai margini. Ma davvero i poveri sono tutti criminali? Questa è la domanda ovviamente provocatoria che viene posta già dalla copertina. Ma del tema appunto ricchezza e povertà si occupa anche Remo Bodei, che nel prologo, cosiddetto, così si chiama la sua rubrica nelle prime pagine di Il, fa un ragionamento appunto sulla ricchezze, sulla distribuzione delle ricchezze nel nostro pianeta, distribuzione che, come tutti sappiamo, è assolutamente diseguale. Ricorda un volume di Berselli, Edmondo Berselli, scrive Bodei, nel suo libro L'economia giusta ha sostenuto che noi occidentali dovremo abituarci a diventare più poveri. Più poveri perché dovremmo condividere le nostre risorse con altri paesi. La previsione di Berselli, continua Bodei, coincide con quella di molti analisti, secondo i quali, per una sorta di legge fisica dei vasi comunicanti, si avrà in futuro un travaso di ricchezza dai paesi dove il benessere è maggiore a quelli dove è minore, e si andrà così tendenzialmente verso un equilibrio analogo a quello dei piatti della bilancia nella tradizionale immagine della giustizia. Ora, questo è più o meno l'assunto di partenza, ma nella declinazione poi della sua rubrica Bodei spiega, non è così semplice far avvenire, seguire, insomma assecondare questo travaso, peraltro condivisibile nelle sue finalità complessive, perché, dice, nella nostra struttura economica, se non si consuma in misura relativamente abbondante non si produce, ma se non si produce il sistema fallisce. Allora è evidente che il consumo cospicuo è funzionale alla tenuta dell'intero ciclo economico. E sotto questo profilo, l'eliminazione di alcune pratiche legate al consumismo, che vuol dire anche consumo di vita, non solo di beni, rappresenta una strada ardua e lunga. Via via poi prosegue appunto nel suo ragionamento, vi rimando alle pagine di Hill per seguirlo passo passo, appunto il ragionamento di Remo Bodei su ricchezza e povertà e distribuzione della ricchezza nel mondo. E si conclude però poi con una domanda: cosa avverrà quando i paesi più ricchi saranno forse costretti a condividere i loro beni con gli abitanti di altre parti del globo? Prevarrà una cultura del dono, della solidarietà e dell'accoglienza nei confronti di chi finora è vissuto nella miseria? Si tornerà veramente a modelli di vita più sobri e più frugali, ormai dimenticati, e cambierà allora per riflesso il nostro rapporto con i beni materiali e immateriali? Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Vi sarete accorti che questo non è l'abituale stacco musicale che utilizziamo per Magazine 24, e infatti è la voce, la incredibile voce di Ella Fitzgerald. L'abbiamo presa da il primo CD della collana I Miti del Jazz, che da giovedì stiamo proponendo in edicola con Il Sole 24 Ore. Il primo CD appunto è l'antologia di Ella Fitzgerald. Questo che abbiamo ascoltato è l'inizio di Dream a Little Dream of Me. La collana poi appunto seguirà, ogni giovedì c'è un nuovo CD dedicato a grandi interpreti del jazz, 25 sono in totale. Vi dico solo che il secondo volume sarà quello dedicato a Miles Davis, poi ci sarà Glenn Miller, Billie Holiday, John Coltrane e ovviamente tanti tanti altri, ogni giovedì con Il Sole 24 Ore. Dream a little dream of me. Torniamo alle riviste, torniamo ai magazine. C'è qualche segnalazione tra il divertente e l'interessante sui telefonini. Su Famiglia Cristiana ci sono due pagine dedicate ai telefonini, ai telefoni cellulari, ma questo diminutivo è oramai di uso comune, quindi credo che nessuno possa in qualche modo confondersi. Innanzitutto Elisa Chiari in queste due pagine ci informa che esiste un campionato mondiale di lancio del telefonino, cioè ci sono delle persone che si ritrovano e provano a lanciare dei telefonini. Vi spiego come funziona. L'idea scherzosa, scrive appunto Famiglia Cristiana, porta con sé un che di catartico. Non è difficile intuire che uno sport che si chiama lancio del telefonino, nato in Scandinavia, sia approdato in Italia con un campionato nazionale, partito il 1 maggio, è partito a Fermo nelle Marche e ci saranno altre tappe italiane. Bene, non è difficile intuire che questo abbia a che fare con un benessere che è più psichico che fisico, e infatti insomma liberarsi del telefonino, lanciare lontano il telefonino, può essere anche un gesto appunto liberatorio, che è quello poi che scrive Elisa Chiari: più che il gesto tecnico qui conta la voglia di liberarsi dell'amato odiato guinzaglio elettronico, che ormai è passato al vocabolario con un diminutivo inversamente proporzionale alla sua invadenza. Bene, questo sport di lancio del telefonino ha delle sue regole molto precise, si gioca su campi di sabbia, di terra, si può giocare anche su erba o cemento, si lanciano dei cellulari messi a disposizione degli organizzatori, tutti rigorosamente della stessa marca, modello e peso, il peso è 66 grammi. Nel rispetto dell'ambiente vengono lanciati senza la batteria, che naturalmente potrebbe rilasciare sostanze nocive. Vince, come è facile intuire, chi lancia più lontano. Il record italiano appunto è fissato a 65 metri e 53 centimetri. Il record del mondo è decisamente superiore, 89 metri. Se volete saperne di più, ci dicono da Famiglia Cristiana che c'è anche un sito che si chiama www.lanciodeltelefonino.it. Se volete anche voi iscrivervi a queste gare di lancio del telefonino, ripeto, appena partite nelle Marche, ma si annunciano altre tappe italiane. Magazine 24. Sweet and lovely, lady be good. Oh, lady be good. good today, 'cause I'm so awfully misunderstood. Old lady, be good to me. Say I'm all alone. Bentornati a Magazine 24, ancora con un piccolo assaggio della voce di Ella Fitzgerald. Vi ricordo, da giovedì stiamo proponendo questa collana dedicata ai miti del jazz. Sono 25 CD, il primo appunto dedicato a Ella Fitzgerald, poi ci sarà Miles Davis, Glenn Miller e tanti altri. Stavamo parlando di telefonini, perché Famiglia Cristiana, vi dicevo, dedica questa settimana due pagine appunto ai telefonini. Tra l'altro c'è un'intervista a Fausto Colombo, che è sociologo all'Università Cattolica di Milano e che anni fa, una decina di fa, ha scritto un volumetto intitolato proprio Il piccolo libro del telefono, un volume da sociologo, cioè sull'uso, sul rapporto che abbiamo col telefonino. Elisa Chiari chiede a Fausto Colombo cosa è cambiato da allora. La risposta di Colombo è quasi tutto. Allora il telefono era un telefono, adesso è un terminale che tiene insieme il computer, internet, Facebook, le foto. Detto ciò, io a volte, più che lanciare il mio telefonino, e qui il riferimento è a queste gare di cui vi parlavo prima delle informazioni sul traffico, gare di lancio del telefonino, Colombo dice: io più che lanciare il mio telefonino lancerei qualche volta quello degli altri. Ma allora il telefonino ci ha liberati oppure ci ha schiavizzati? La risposta di Colombo è più articolata. Aumentano gli spazi di libertà, spiega, ma aumentano anche le forme del controllo. Abbiamo opportunità che prima non c'erano, possiamo leggere ovunque il giornale dal tablet, questo ci fa sentire liberi, però dall'altra parte c'è un sistema che fa sì che noi siamo sempre tracciabili, si sappia sempre dove ci troviamo anche quando non vorremmo renderlo noto a mezzo mondo. Questo è in realtà il lato oscuro della rete. Siamo diventati meno sensibile alla perdita della nostra autonomia e ci sottoponiamo volontariamente a una forma di controllo. Insomma, è la domanda conclusiva di Elisa Chiari: abbiamo disimparato il diritto a sparire? La risposta è tra diciamo il personale e il generale. Dice: io abito in un posto con poco segnale, all'inizio la cosa mi faceva infuriare, adesso comincio ad apprezzarlo. Però credo che l'abituarsi a non essere indispensabili sia in ogni caso e sempre una grande lezione. E a proposito di telefonini, ho colto su 7, in edicola da giovedì con il Corriere della Sera, che Hedy Lamarr, bellissima donna, bellissima attrice, tra l'altro famosa per il primo nudo femminile nella storia del cinema in un film che fece scandalo, si chiamava Estasi. Hedy Lamarr aveva dei bellissimi occhi verdi, pelle bianchissima. In realtà anche a Hedy Lamarr il telefonino deve qualcosa. Lo racconta Edoardo Segantini proprio su 7. Edoardo Segantini, insieme a Giovanni Pau, ha scritto un libro dedicato a Hedy Lamarr, la donna gatto, e in questo libro si spiega anche che fu lei a brevettare un sistema che si chiama frequency hopping, una tecnologia che era stata pensata in origine per guidare i siluri in tempo di guerra e che poi ha avuto un notevole impatto sulla telefonia mobile e sul Bluetooth. Il ruolo di Hedy Lamarr, spiega sempre Segantini, è stato soprattutto intuitivo. Lei evidentemente era venuta a conoscenza di questa scoperta grazie anche al marito, che si occupava appunto di armi, e poi ci fu un compositore che la aiutò adattando appunto il sistema dei rulli meccanici dei pianoforti al frequency hopping. Per questo tipo di attività, che non fu chiaramente l'attività più nota della vita di Hedy Lamarr, finalmente le vennero riconosciuti, ma molto tardivamente, dei meriti. Nel 1997 le fu conferito un premio. Quando finalmente ricevette questo premio per le sue anche abilità tecnologiche e scientifiche, lei si limitò a commentare con un "It's about time", che potremmo tradurre con "era ora". E allora, dalle invenzioni di casa ad altri, come quelle di Hedy Lamarr, alle invenzioni di casa nostra, alle non invenzioni di casa nostra, sull'Espresso un dato che può fare piacere: esportiamo anche, non dico proprio notai, ma il sistema notarile. L'ho trovato nelle pagine dell'Espresso di questa settimana. I mutui subprime, cosiddetti, i mutui subprime sono quelli che sono all'origine della grande crisi finanziaria mondiale, che hanno scatenato poi la crisi finanziaria ed economica mondiale. I mutui subprime sono stati provocati in America anche da una mancanza di controlli. Ora, che sta accadendo, riferisce l'Espresso, che gli americani, gli statunitensi, si sono resi conto che forse bisogna adottare adottare un diverso sistema di controlli e si sono rivolti ai notai italiani. Scrive infatti l'Espresso nella sua apertura delle pagine di economia: tre notai italiani sono stati invitati a collaborare a una task force che è stata istituita dall'Associazione degli Avvocati americana, una task force che deve studiare proprio come combattere il fenomeno dei furti di identità in via elettronica, un fenomeno, abbiamo letto anche in questi giorni, sui quotidiani in espansione. E questi notai italiani spiegheranno appunto qual è il nostro sistema di tutela per evitare che delle persone si appropriano l'identità di altri o magari concludano compravendite senza averne le doti. Spiega Eliana Morandi, che è appunto un notaio italiano, notaio a Udine, che le soluzioni allo studio cercheranno di avvicinare il sistema americano a quello italiano, e il notaio sarà un intermediario chiamato a verificare ad esempio che le parti che si scambiano i beni ne abbiano la reale disponibilità. Purtroppo, diciamo, per il nostro sistema, per la nostra economia non sono sempre buone notizie, ne è testimonianza anche il volume che abbiamo mandato da qualche giorno in edicola, che vi stiamo proponendo da qualche giorno, perché l'Italia non cresce. I problemi della nostra economia passati in rassegna da una recente inchiesta che forse avete letto sul nostro quotidiano e che abbiamo ora raccolto proprio in questo instant book, come si dice. In uno degli articoli introduttivi Fabrizio Galimberti, economista, firma del Sole 24 Ore, spiega che il problema dell'economia italiana e della sua scarsa crescita è più che altro nei sospetti e nelle incapacità a collaborare che avvelenano i rapporti tra pubblico e privato. Il terreno è buono, argomenta Galimberti, abbiamo un sistema produttivo che ha tanti esempi di successi, tante nicchie di eccellenza, ma un buon terreno non basta. L'humus può essere fertile, ma resta vero che migliore il terreno e più gramigna produrrà se non lo si coltiva. E con questa segnalazione si conclude la nostra puntata di oggi. Io ringrazio Fabio Cantadori questa mattina in regia, grazie come sempre ad Anita Panizza. Vi ricordo che se volete informazioni su questo e su tutti i programmi di Radio 24 potete collegarvi al nostro sito www.radio24.it. Buona giornata a tutti.